La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. L'articolo 9 ci dimostra che uno Stato non è costituito solamente da regole e da leggi. Uno Stato è anche fatto da valori. Ecco allora che i costituenti, fra i principi fondamentali, pongono la tutela di valori fondamentalissimi. Cosa ci vogliono dire i costituenti? Uno Stato deve essere innervato proprio dai suoi valori comuni e fondanti. Ecco allora lo sviluppo della cultura per consentire ai cittadini la piena partecipazione. Ecco la ricerca scientifica e tecnica che possono consentire alla nazione di crescere. Ecco la tutela dei valori del paesaggio. Era lontanissima nel 46-47 l'idea della tutela dell'ambiente, per come la intendiamo oggi, un valore modernissimo degli anni 80. E invece i costituenti furono presbiti, come diceva Calamandrei, guardavano lontano, capirono che il paesaggio non solo in chiave statica non è la fotografia, ma è proprio in chiave dinamica la tutela del territorio italiano e quindi la valorizzazione del patrimonio storico e artistico, la cultura nazionale. Qui i costituenti hanno guardato lontano ed è questo uno dei segnali per cui la Costituzione, dopo 70 anni, è ancora così attuale. Perché se noi ci interroghiamo, c'è molto da fare sulla cultura, sul paesaggio, sulla tutela del patrimonio storico e artistico. E i costituenti ce l'hanno detto già 70 anni or sono.